La politica alla prova. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla postazione di Radio 24 qui a Montecitorio. Apriamo subito con il Movimento 5 Stelle, una seduta turbolenta, quella del Senato di ieri e di oggi, tra aperturisti ortodossi per un eventuale appoggio ad un possibile governo di centrosinistra qualora il PDL dovesse uscire dalla maggioranza, e capo degli aperturisti sembra essere Luis Orellana, che attacca anche il capo ufficio stampa del Senato Claudio Messora, reo di voler giocare al piccolo parlamentare. Non ha più la mia fiducia, ribadisce Orellana. Beppe Grillo intanto però tuona dal suo blog: chi si guarda l'ombelico è fuori dal movimento, siamo in guerra, una guerra che deciderà il destino di questo paese. Noi vogliamo rassicurare però Beppe Grillo che la guerra in Italia attualmente non c'è, c'è purtroppo in Siria, ma speriamo finisca presto. Nel frattempo però torniamo alla politica, perché nel movimento, in questa guerra paventata da Grillo, c'è chi pensa ad attaccare la stampa, come Nicola Morra. Qual è il pericolo? Che noi, non ben consci di tutto ciò, si dia la sponda a chi il sistema ci manda affinché noi si scivoli. E chi sono questi signori? I giornalisti. Grazie Morra, che sono i giornalisti, va bene. Questa è l'opinione ovviamente del senatore Morra, ma è in corso qui una riunione del gruppo 5 Stelle alla Camera con tutti i parlamentari, senatori e deputati. C'è però chi con i giornalisti ci parla e parla con Radio 24, non solo, ma è una nostra ospite fissa, Carla Ruocco. Certo, come paventavamo, l'IMU è stata tagliata senza trovare opportune coperture e adesso quindi appunto tagliano il fondo per l'occupazione, ma non solo quello. Sono in prospettiva, ci sono anche tagli ai trasporti e ad altri servizi per i cittadini, che ovviamente verranno penalizzati come pensavamo già inizialmente. In più c'è anche un taglio sugli ispettori, che dovrebbero appunto mettere in campo la lotta all'evasione, quindi tutto molto contraddittorio. Come faranno a recuperare i fondi? Guardi, io penso che alla fine dovranno effettuare ulteriori prelievi fiscali da altre parti, purtroppo. Quindi magari sulle accise, o si inventeranno altre tasse con altre fogge. Questo è il problema. Riguardo invece al Movimento 5 Stelle, c'è Maretta al Senato, perché Orellana è il capo degli aperturisti, sì al dialogo, poi c'è un post di Beppe Grillo molto duro: chi si guarda l'ombelico è fuori dal movimento. Certo, perché noi guardiamo avanti, chi si guarda l'ombelico è uno che si ripiega su se stesso, quindi non è nello spirito del movimento. Noi siamo un movimento rivoluzionario, pacifico, democratico, ma comunque di forte cambiamento, quindi occorre guardarsi avanti. Ci pensi bene chi non vuole fare questo. Allora, un avvertimento per Orellana, per gli aperturisti? Chi non segue il progetto che abbiamo esposto, rivoluzionario, del movimento, deve pensarci una volta e per tutte. E quindi deve abbandonare il movimento? Se non si ritrova più nel progetto, è chiaro che non si ritrova con se stesso alla fine. Lei pensa che questi senatori siano attratti da poltrone, prebende, qualche premio? Questo non è un problema del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è un progetto che va avanti. I motivi per cui poi una persona non possa ritrovarci si possono essere moltissimi, lo sa la persona stessa, perciò occorre riflettere se qualcuno ha qualche dubbio. Quindi lei non ha il dubbio che siano stati allettati da qualcosa? La casistica è ampia, le probabilità ci sono per qualunque caso, però bisognerebbe chiederlo poi ai diretti interessati. Ma non eravate l'ombelico del mondo? Siamo ancora l'ombelico del mondo. E quella che avete sentito è Carla Ruocco, che nella prima domanda rispondeva a una domanda sull'IMU. Ricordiamo ieri l'attacco di Confindustria e sindacati: per togliere l'IMU hanno tolto anche i fondi per l'occupazione. Intanto andiamo a vedere cosa succede nel Partito Democratico, il partito più polifonico del mondo. Si fa sempre però più forte la posizione di Matteo Renzi, che conquista dopo Dario Franceschini anche l'appoggio del sindaco di Torino Piero Fassino. Ma tra poco a Genova parlerà l'anti-Renzi, ovvero Pierluigi Bersani. E sentiamo invece che cosa deve fare Renzi per il vice capogruppo alla Camera, Andrea Martella. Renzi fa bene a candidarsi a fare il segretario del PD, e per chi vuole guidare il Paese è necessario guidare il Partito Democratico ed assumere un ruolo di segretario. E naturalmente adesso è importante che il congresso ci sia, Ma che il congresso non sia un momento in cui non ci sia confronto, non ci sia battaglia politica, di idee, e credo anche che Renzi dovrà presentare una propria mozione con un programma chiaro, con contenuti precisi, con una visione della società, con un'identità programmatica per la quale e sulla quale costruire il PD dei prossimi anni. A quel punto sarà importante che vengano i contributi di chiunque intende darli verso la definizione del messaggio e della proposta del Partito Democratico. Quindi, insomma, in sostanza Renzi, prima di autoproclamarsi segretario, deve vincere un congresso? Beh, questo lo dice anche Renzi, lui ha dato la sua disponibilità a guidare il PD, ora bisogna confrontarsi seriamente con tutti, con gli elettori e con gli iscritti per costruire attorno alla sua proposta un largo consenso. A me pare che lui abbia la carica innovativa, il dinamismo, il profilo politico per poter guidare il PD. Naturalmente questa sua leadership si deve affermare innanzitutto con il consenso di chi il PD intende farlo vivere nella società, cioè gli iscritti, gli elettori, i simpatizzanti. C'è un po' di polemica Confindustria sindacati sulle coperture, sull'IMU, insomma, per togliere l'IMU si sono tolti i fondi all'occupazione. Diciamo che per togliere l'IMU sono state trovate delle coperture, queste coperture potranno essere verificate e migliorate nell'iter parlamentare. Da Confindustria e da sindacati ieri è venuto un contributo molto importante perché il nostro paese torni a crescere, con l'obiettivo di focalizzare nella prossima legge di stabilità dei punti programmatici su cui lavorare, governo e parti sociali. Dà l'idea che questo paese può tornare ad avere una visione di sé e un percorso che lo porti ad abbattere il debito, ad abbattere il gap di competitività con gli altri paesi e appunto a tornare a crescere. E sono già arrivati i vostri sms al 349-238-6666, mi ha fatto molto sorridere quello di Rino, dice ha ragione Morra, no ti prego Rino, parlate del servizio di Iacona di ieri sera se ne avete il coraggio, io non l'ho visto quindi non ne posso parlare, comunque nel PDL continua la battaglia in vista del 9 settembre, il giorno della giunta per l'elezione al Senato che deve decidere la decadenza di Silvio Berlusconi, domani alle 13 riunione del gruppo PDL al Senato e all'1:30 riunione dell'ufficio di Presidenza della Giunta. Intanto nuovo appello d'Angelino Alfano. Da parte di tutti e in primo luogo del Partito Democratico vi sia un approfondimento giuridico e un approccio giuridico a questa vicenda. Non può essere, noi vorremmo che non fosse trattata come si può trattare la vicenda del principale avversario politico di questi 20 anni. Noi chiediamo uno studio, un approfondimento giuridico e chiediamo che la vicenda venga trattata nella sua essenza tecnica e escludendo tutti gli aspetti politici che hanno caratterizzato questi 20 anni. E a sostenere Berlusconi il segretario leghista Roberto Maroni. Penso che debba prendere una decisione, mi auguro che la decisione sia la decisione di togliere sostegno al governo. Noi abbiamo valutato ieri, abbiamo ritenuto che in campo penale non possa valere il principio della retroattività, quindi secondo noi la legge Severino quando stabilisce il principio di retroattività è incostituzionale. E allora leggiamo i vostri sms al 349-238-6666. Antonio da Como giustamente ci dice mentre continuano a parlare di IMU in Italia si fa la fame, però ricordiamo che ieri Confindustria e sindacati si sono incontrati per il patto di stabilità per dare una speranza a questo paese. Non è detto, ci dice Marina da Milano, che giovane coincida con novità. Renzi è vecchio dentro, anche questo è un commento che mi fa abbastanza sorridere e quindi continua anche a arrivare sul PD, è il peccato originale di Bersani, dateci i vostri voti che ci pensiamo noi, ecco poi alla fine però poi non è stato possibile pensarci, basta con la balla che l'IMU toglie i soldi all'occupazione, è l'ultimo SMS. Allora vi ricordo l'appuntamento con la politica alla prova anche per domani, un saluto da Montecitorio da Elisabetta Fiorito.